Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 e 5 minuti, bentrovati. Oggi mercoledì 9 maggio 2012, altro e nuovo appuntamento con Rock Wave Live del mercoledì, appuntamento clou della serata di Blu Radio Veneto. Ogni mercoledì appunto ospitiamo gruppi, artisti e quant'altro che suonano in diretta dal vivo nei nostri studi, in studio chi vi sta parlando, Sergio Bortolami, dall'altra parte invece del vetro insieme ai nostri ospiti di questa sera, la voce di Maurizio Calzavarra. Ciao Maurizio. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera siamo in compagnia dei LOR, L'OR, per chi non ha ancora avuto modo di leggere il nome dei nostri artisti. Maurizio, passo a te la parola. Benissimo, io ringrazio i LOR di essere venuti stasera. Ci sentiamo e ci conosciamo da tempo. Questo è il quarto disco, mi pare. Sì, siamo quasi di casa. Siamo quasi di casa, è cosa molto positiva. Vuol dire che la musica va avanti, continua, e voi siete qua stasera. Buonasera Maurizio. Una rappresentanza di quattro, Emanuele e Federico. Gli altri due sono a casa. Buonasera a tutti. Ciao Maurizio e grazie per averci ospitati. Avete fatto un buon viaggio da Verona? Sì, sì. Siamo arrivati tranquillissimi. Ormai conosciamo la strada. Sull'onda della musica praticamente. È proprio su Rock Wave. Giustamente, ascoltatori, voi non lo sapete, quando sono arrivati Emanuele e Federico mi hanno detto non ci serve il navigatore, la strada la conosciamo, siamo arrivati giusti senza nessun problema. Esatto. È così vero? Esatto, proprio anche ormai la sua memoria. La sì, strada. Sì, va direttamente. Importante è sottolineare che questo è un disco nuovo, uscito da poco, Rabbia e Sole, un disco importante, un disco fatto con un'orchestra, 40 elementi avete scovato, è una cosa positiva. Innanzitutto parliamo un pochettino della vostra storia, è una storia importante. Come siete nati musicalmente parlando, Emanuele e Federico? Allora direi che noi nasciamo artisticamente una decina d'anni fa, ormai, sono già passati tutti anche. Ma sono passati bene, dai. Sono passati bene e siamo partiti dal niente come tantissimi artisti fanno, e solo con la voglia e la passione di provare a mettere insieme quattro note e qualcosa di proprio, anche dal punto di vista testuale. Sottolineare qualcosa di proprio, questa è esatto. Musica vostra, non è musica, non sono cover, assolutamente, tutta originale. Quindi le idee ben chiare fin dall'inizio e sapere dove... No, non si poteva sapere dove saremmo arrivati, però siete arrivati sapere dove volevamo puntare, insomma, quale strada ci sarebbe piaciuta seguire. Siamo stati sempre molto coerenti nel nostro percorso e abbiamo avuto anche la fortuna di trovare lungo la strada svariate persone che hanno creduto in noi e nelle nostre canzoni, nel nostro progetto, nelle nostre parole, e quindi siamo arrivati in 10 anni con... una marea di live, tanti live, già sottolineare che la band ha suonato tantissimo dal vivo, tantissimo. Suonando dal vivo, come si dice, ci fanno le spalle, molte spalle, grosse spalle. Anche perché ti mette il live, io penso sia sempre un test importantissimo per metterti davanti ai tuoi limiti. Esattamente. E io infatti sono sempre poco soddisfatto dopo un concerto, difficile che sia contento fino in fondo, ma ognuno di noi, perché troviamo sempre quella piccola virgola che potrebbe andare meglio, no? Magari chi l'ascolta non lo nota, però noi siamo i primi sul palco che... Siete proprio degli staccanovisti, sì, praticamente. Sì, molto perfezionisti. Molto perfezionisti. Sicuramente sì. Citiamo anche gli altri due componenti della band che ci stanno sentendo da Verona, allora, vai. Bassista Daniele Nazzi, da Udine ci sta ascoltando. Ah, da Udine, lui. E sì, perché siete Veneti Friulani. Esatto, Veneti Friulani. Esatto, ormai è fusa. È fusa. È fusion. E poi l'altro componente? Matteo Gangini alla batteria. Quindi il batterista, il bassista non c'è, ma stasera abbiamo i due chitarristi. Esatto. Bene. E anche le due voci, perché quando è entrato Federico nella band mi affianca costantemente alla voce, perché sì, dimmi. Ci siamo resi conto che è più bello cantare in due. Questo è vero, tu hai una voce forte, potente, è una caratteristica della band la tua voce forte, sì, potente. Sicuramente sì, anche su quello che è un po' la mia voce, anche i miei testi, è sempre stato strutturato abbastanza il mondo dei LOR e l'imprinting, diciamo, la voglia di arrivare dal punto di vista della band è stata imperniata molto su questo fattore, e siccome abbiamo trovato fortunatamente un'altra persona che ha una voce stupenda, e abbiamo pensato che era meglio dividere, certo, cioè, il compito in due e darsi man forte vicendevolmente, e quindi Fede canta praticamente tutto assieme a me. Benissimo, e siete arrivati a questo disco, Rabbia e Sole, che è il disco numero 4, un disco importante, un disco che ha avuto tanto un produttore di un certo livello, un grosso produttore. Parliamo di questo produttore che aveva dato una svolta, un input non da poco. Direi che ha marcato bene il nostro sound. Noi siamo sempre stati pressoché indipendenti, anche se abbiamo lavorato con arrangiatori e produttori in passato. Certo. Però si può dire che ci siamo sempre arrangiati parecchio, anche volendo arrangiarci parecchio, e quindi mettendo quello che era esclusivamente farina nel nostro sacco nei nostri dischi, nei tre precedenti. In quest'ultimo è arrivata la firma con una major, con la EMI, che ha cambiato un po' tutte le cose, ci ha affiancati a questo produttore che ha da subito sposato il nostro progetto e la nostra musica, che si chiama Gianni Herrera. Prima di noi ha prodotto Cristi, Icky, Raff, insomma tanti autori e musicisti della musica italiana, anche del giro mainstream, certo, quindi certo, non solo emergenti. E direi che lui ha definitivamente cambiato quello che è il nostro sound e il nostro modo di concepire la musica, perché fino ad arrivare a Gianni noi facevamo musica molto di pancia e molto istintiva. Con Gianni abbiamo cominciato a fare musica e a capire perché la facevamo, e quindi gestendo gli arrangiamenti in base ai brani e quindi dando un vestito adatto ad ogni brano e colorandolo al meglio, e questo ci ha fatti crescere sicuramente non poco dal punto di vista musicale. La musica di pancia rimane, però una musica di pancia stavolta organizzata meglio, divigata, ristrutturata, proprio possiamo dire così? No, è perfettamente giusto il termine, proprio la pancia resta sempre. La pancia deve esserci e deve restare, perché altrimenti non sarebbe trasportabile l'emozione, certo, poi dal vivo. Però quello che ha fatto Gianni è in un certo senso insegnarci a fare il musicista di professione, quindi di sapere dove mettere cosa. È importante che non ha il gusto, sì, è una questione di gusto. Esatto, non ha compresso le vostre esigenze, le ha fatte proprio sfociare. Esattamente, le ha indirizzate, possiamo dire sì, così. Sì, ma guarda che ha fatto un lavoro lunghissimo con noi, perché ci abbiamo messo un anno a mettere in piedi questo disco. E quotidianamente abbiamo lavorato in maniera quasi maniacale su ogni brano. Ecco, una cosa giusta, hai detto una maniera maniacale, e si sente nel disco che è una maniera maniacale del lavoro, è curato perfettamente, cesellato pezzo per pezzo, niente è buttato al caso. Abbiamo avuto la possibilità di fare un disco come si faceva una volta, come si faceva 30 anni fa, dove si curava il dettaglio allo spasimo. Un po' alla Queen, per farti capire, Queen, come modus operandi, ho no? capito. Che gestivano anche le virgole, ma anche la Michael Jackson, per farti un nome un po' più recente, insomma. Avete avuto anche un tecnico che ha lavorato sì. E abbiamo veramente grossi, mamma e mia. Abbiamo avuto la fortuna di far che questo disco lo registrasse. Sai che è il tuo, sei tu. No. Cellulare che suona. è un altro. Ma che cazzo? È un altro. Sono cose che capitano. Può capitare. Mentre si parla del tecnico, è spuntato. Non doveva essere quello della borsa. Non era il mio, però guarda adesso. Guarda, faccio una bella operazione di spegnimento. Tech. Cadiamo più nell'errore. Ritorniamo a parlare del tecnico. Scusate ancora. Direi che abbiamo avuto l'enorme onore di lavorare con, a parte un fonico di sala straordinario che è Fabrizio Frezza, che ha cablato e microfonato e ricercato i suoni di brano in brano assieme a noi, anche questo molto maniacalmente. E poi tutto il lavoro è stato dato in mano per quello che è il sound engineer, perché proprio si tratta di un ingegnere del suono, non è proprio un semplice fonico. A Steve Lyon, che è insomma il nome che prima non abbiamo detto di nessuno, leggevamo in copertina e nei dischi che vendevano milioni di copie, e poi ce lo siamo ritrovati noi, quindi è stata una cosa, subito non ci credevamo molto neanche, però la EMI ha voluto fortemente questa persona, e lui è sceso dall'Inghilterra per lavorare qualche mese assieme a noi, poi noi siamo andati su, insomma è stato fatto abbastanza fra Roma e Londra il disco, e quindi abbiamo creato questa sinergia con questa persona che, pur avendo messo la firma su Depeche Mode, Cure, Paul McCartney, Laura Pausini in Italia, Subsonica, Microchip Emozionale, uno dei dischi più belli dei Subsonica l'ha fatto lui. E poi tantissimi altri che mi imbarazza a citare. Ha messo la firma anche sul disco dei Lore, quindi... Devo dire che è stato immensamente grande poter lavorare con lui, ma anche immensamente istruttivo, perché chiaramente era un pozzo di scienza musicale che pochi artisti emergenti possono permettersi di conoscere e di avere e di lavorarci addirittura. Insomma, è stato un privilegio non da poco, come quello che dicevi prima dell'orchestra. Certo, l'orchestra. Dopo ne parliamo ancora, perché l'orchestra è una cosa importante. È una cosa in più. Abbastanza. Cioè, questo è un disco della EMI, gli altri erano dischi non prettamente, non dico autoprodotti, però no, etichetta indipendente. Cioè sì. 40 elementi non è mica una cosa semplice. Infatti, una anche cosa, pagarli non anche è una pagarsi, cosa semplice. Beh, cosa dici? E quindi noi non ce lo saremmo mai potuti permettere. Cosa dici, Sergio? Cominciamo con il primo pezzo, allora. Andiamo a sentire la prima canzone, Rabbia e Sole, se vogliamo dire qualcosa, magari presentare... Il singolo praticamente. Sì, è proprio il singolo, è la title track, quella che dà l'immagine a tutto il disco, direi, perché comunque il brano stesso parla di una dicotomia importante fra quello che è il sentimento rabbioso, la rabbia, e quello che è invece è il sentimento un po' più solare, più caldo, che io ho paragonato al sole. Questa dicotomia c'è un po' in tutto il disco, cioè è abbastanza... netta la separazione, e non necessariamente deve essere la rabbia un sentimento positivo, e non necessariamente il sole deve essere qualcosa di negativo, insomma, o positivo, e viceversa. Quindi direi che questa contrapposizione, come a me piace spesso fare, si legge un po' in tutto quello che è il disco, e Rabbia e Sole ne è l'immagine assolutamente. Benissimo, allora andiamo a sentire Rabbia e Sole. Rockwave, l'onda del rock. Sottopelle. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Era Rabbia e Sole dei Lor, la traccia 3 del loro ultimo disco. Maurizio, allora, ricordiamo magari anche come contattarci. Vabbè, per contattare Blu Radio Veneto, ovviamente il nostro sito internet bluradioveneto.it, cercateci anche su Facebook, e poi 346 23 20 033 per eventuali sms, se ci sono anche i vostri amici all'ascolto, perché no? Perché non mandare, sì. Sì, due cose da questo pezzo, Emanuele e Federico. A me è piaciuto molto il muro di chitarre. Ci sono i violini, c'è l'orchestra, ma c'è il muro di chitarre. E praticamente il muro di chitarre tu lo cavalchi dal punto di vista vocale. Vero. Lo cavalchi nel senso positivo del termine. Vero. Questo è un singolo atipico, non è un singolo, il solito singolo da classifica, è un singolo atipico. Mi fa piacere che tu abbia notato questa cosa, perché non siete in tanti ad averla colta nell'arrangiamento, insomma. L'arrangiamento mi piace molto, è molto è bello. È stato proprio voluto, proprio, anche emotivamente sì. Parlando, ti coinvolge fino alla fine ed è un crescendo, no? Perché il brano parte molto in sordina, poi certo. Apre a sempre di più e alla fine entrano sti chitarroni devastanti. Sì, devastanti, vero Sergio? Proprio un bel muro di chitarre, a chitarra, però non è la chitarra fatta volutamente così devastante, ma devastante nell'insieme delle cose. Sì, sì, sì. Poi corposa. Corposa, bravo, ecco, bravo, bravo. Devo ricordare chi con me ha scritto questo brano, sì. Che si chiama Stefano Ripa, certo. Ed è il chitarrista di Claudio Baglioni e di Mario Biondi. E grandissimo artista. Sì, sì, super chitarrista. E quelle chitarre mostruose le ha proprio registrate lui, perché penso sia uno dei migliori chitarristi che conosco. E questo brano l'abbiamo proprio partorito assieme, è stato un viscerale. E quindi non poteva non mettere il suo tocco e la sua mano sul brano stesso, quindi le ha registrate. L'idea è proprio qui, era questa, Emanuele? Sì, sì, sì, sì. È nata così. In partenza. Guarda, ti dico anche che il provino rispetto alla versione finita ha pochissima differenza. Ah, bene. Cioè è rimasto proprio quello, poi è piaciuto tantissimo al produttore, a Gianni e a tutto lo staff, per cui si è deciso proprio che quello fosse il singolo portante del disco, ma come è nato così è rimasto. Ha un bel suono, quello è importante, sì, sì. Il bel suono, il suono fatto bene, il suono come tu hai detto giustamente, fatto con una certa cura, un certo impegno, non buttato così. No, quindi certo. Il discorso dei Queen ritorna, sì, sì, possiamo sì. Dire così, Federico? Sì, sì, sì, direi che queste sono le parole giuste. Ecco, ok, Sergio, cosa dici? Adesso li facciamo suonare, sì, per forza, no, mi pare giusto. Sono 22 e 24, è ora di il suonare. Primo pezzo, giusto. Cosa facciamo, Fede? Partiamo da... Sì. Va bene. Allora, noi abbiamo inserito in questo disco l'unica cover, che è un brano non troppo conosciuto. No, assolutamente. E la scelta è stata voluta. Non casuale, insomma. Che si intitola Meccanismi. Gli autori sono una band emiliana che si chiamava Il Nucleo. Cioè adesso non esiste più. Che adesso purtroppo non esiste più. Loro si sono sciolti da ormai... quasi tre anni, sì, due sì. Anni abbondanti. È un band importante nella nuova musica italiana. Eh sì, me. E loro avevano in un certo senso spaccato di brutto, sì. Perché col singolo Sospeso e poi Meccanismi fu il secondo, avevano avuto un botto incredibile, un seguito incredibile anche dal punto di vista radiofonico. Noi questa affinità a loro direi che l'abbiamo sempre sentita da quello che è proprio la cura del brano, di brano in brano, e da una prima conoscenza partita più o meno 7-8 anni fa si è arrivati per casualità e per coincidenze e per comunque momenti e tappe della nostra reciproca vita artistica a un'amicizia profondissima, e l'amicizia fra noi e il Nucleo si è coltivata e sviluppata al punto da voler inserire un loro brano in un nostro disco sul quale abbiamo lavorato assieme. Quindi quello che sentite nel disco è il risultato di entrambe le band, visto che l'amicizia spesso porta ad orizzonti sconosciuti, abbiamo pensato di ridare voce a una canzone secondo noi bellissima che è stata troppo poco capita rispetto a quella che invece li ha resi grandi, che era stata Sospeso. Meccanismi. Thank you. cuore sporti pure. Non sono mai stato portato ad amare Rene, ne lasci solo un pezzo. Mi serve quando vengo colpito basso. Somministri pure o anestetico vitale. Voglio diventare insensibile al dolore. Chiedo rimanere sotto lunga osservazione. Attormenti pure ogni forma di passione. Fegato, io non ne ho mai avuto. Milza, mi fa male quando è in uso e ne abuso. Occhio, ho già visto abbastanza. Orecchio, ha una grande importanza. Somministri pure l'anestetico vitale. Voglio diventare insensibile al dolore. Chiedo rimanere sotto lunga osservazione. Attormenti pure ogni forma di passione. Sa che cosa fare, mi fermo troppo spesso per respirare. Stomaco, dottore, tolga il tutto, da troppo digerisco ogni fastidio. Somministri pure l'anestetico vitale, attormenti pure ogni forma di passione. L'onda del rock. Se Maurizio, che non avevo mai ascoltato bene il testo di questa canzone, sarà stato il momento, sarà stata la loro interpretazione, ma è veramente tosto. È proprio tosto. Mamma mia. È molto, molto tosto. È un significato profondissimo, molto ricercato, molto intelligente. Cosa che nel pop italiano all'epoca, perché questo è un brano del 2003, ricordiamo, era una cosa super avanguardistica, cioè dovevano ancora scoppiare i vari filosofi un po' della canzone pop moderna, vedi Tiziano Ferro, da quel punto di vista lì intendo, no? Un po' Mengoni, sì, l'attuale, capito? E loro erano stati, cioè avevano avuto una genialata pazzesca, associare agli organi un sentimento del, sì, quale liberarsi, certo, durante il proprio cammino, perché se ne sono viste troppe, Ah, era una cosa che a me aveva veramente toccato profondamente quando sentì il pezzo la prima volta. E forse perché erano troppo avanti, forse non sono stati capiti. Ma come succede a tutti gli artisti, e purtroppo in Italia però va a finire che ci si scioglie perché si ha più la possibilità di continuare, proprio per ragioni economiche, perché certo, in qualche maniera comunque devi mangiare e vivere, vero? Chiaro. Bisogna dire una cosa, che l'interpretazione che avete dato, il pezzo nel disco è un po' più veloce chiaramente, sì, qui l'avete rallentato acusticamente, l'avete interpretato molto bene. Grazie. Con molta sofferenza dal punto di vista creativo, cioè ti hai dato una spinta a te, Federico. Sì, sì. Noi abbiamo avuto questa sensazione io e Sergio. Grazie, è una bellissima sensazione. È molto bello. Anche il fatto che abbiano notato dall'altra parte del vetro. Sergio è una persona di una certa cultura, quindi la profondità del significato, certo, testuale, significa che insomma in qualche maniera siamo riusciti a nostro tempo. Colpito nel segno. Grazie. Benissimo. Benissimo, adesso parliamo un momento, io voglio sapere un'altra, voglio entrare nel discorso dei 40 elementi dell'orchestra, perché mi affascina molto l'orchestra, usata in senso, abbellito praticamente questi pezzi. È proprio il termine giusto, a me piace usare anche il termine colorata. Ecco, colorata, e va bene lo stesso. Perché si tratta proprio di quello. Cinque canzoni su 10, quindi metà dell'album, ha suonato questa orchestra, la Filarmonica di Roma. Ed erano 40 elementi chiusi tutti nello studio, erano anche molto stretti perché c'erano cioè le sale di ripresa erano molto grandi, solo che tu infilaci 40 elementi più una band all'interno di una stanza non enorme, si parla di un teatro, capito, dove lo spazio c'è, ma le sale di ripresa sono quante saranno 180 metri quadri, 80 metri quadri. Sugli 80 metri quadri infilarci 46 persone è dura, insomma. Un'impresa. Però, con strumenti e tutto, anche perché c'erano i bassi, c'erano i violoncelli, quindi cose anche abbastanza ingombranti. Bello in caso. E, però suonare con loro è stata una cosa incredibile. Registrare in quei giorni, in 3 giorni abbiamo fatto tutto, quasi 4, 3 giorni e mezzo, dai, diciamo. Bella tirata loro. Una bella tirata, più o meno 16 ore al giorno. Ah. Sì, sì. Hai capito, Sergio? 16 ore al giorno. Però è incredibile. In quei 4 giorni, io ti giuro, non ci serviva a dormire. Perché era talmente tanta la soddisfazione, l'adrenalina, poi di veder realizzato una cosa che sognavamo da quando eravamo bambini, no? E poi ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, la cosa di adottare un'orchestra sinfonica nel rock ha cominciato ad espandersi molto. Ricordiamo il live dei Metallica. Certo, esattamente. Indimenticabile, che noi abbiamo proprio visto da quando eravamo ragazzini, crescendo, e sempre riguardato centinaia di volte, abbiamo detto chissà se un giorno capiterà mai anche noi, ma era il più recondito dei sogni, insomma. E ha fatto pure Vasco adesso. Esatto. Esatto. Con risultati non proprio eccezionali. Non sei pienamente soddisfatto del disco di Vasco? L'ho ascoltato, ma ha lasciato un po' lì. Sono un po' a metà. Perché tutti si ricordano Alba Chiari in una certa maniera, hai capito? Forse con l'orchestra. No, è molto bello, molto sinfonico, molto melodico, però... Ma l'ha ricantata oppure hanno preso la voce dell'epoca? Ecco, perché a volte non c'entra. Lui ha detto che l'ha ricantata. Lui ha detto che è stato per 2 mesi in uno studio a Bologna e non riusciva a cantare. Io ti dico, alla fine proprio quella sensazione, l'ultimo giorno che aveva a disposizione, in un crescendo incredibile, li ha cantate tutte. È venuto perché io ho avuto proprio quella sensazione lì, scollamento la voce sia completamente staccata da quello che fa l'orchestra, ma anche come interpretazione, pathos. Il cool edit fa miracoli a volte. Ecco, vedi, cioè non vorrei che ci fosse stata molta tecnologia. Può darsi, però lui ha detto che lo sento poco spontaneo, un po' distaccato, poco spontaneo come disco. Eppure, guarda, ti giuro che io, non essendo un grande estimatore di Vasco Rossi, l'ho anche ascoltato con curiosità, però mi ha lasciato un po' così. Comunque, ritorniamo ai vostri. Stavamo dicendo, seguendo quello che è stato l'esempio dei Metallica, ma poi non soltanto loro, anche i Muse, nell'ultimo disco, insomma, in varie canzoni hanno adottato questa orchestra. Ci è stata data la possibilità, voluta fortemente sia da Gianni che da Steve, quindi proprio tutto lo staff che aveva voce in capitolo sulla produzione del disco, si è impuntata e abbiamo ottenuto questa cosa meravigliosa, lavorare questi 3 giorni e mezzo con 40 professionisti che stavano suonando realmente in tempo reale, senza essersi preparati, una partitura che hai scritto tu su una canzone che hai scritto tu, cioè ti giuro continuavamo a pizzicarci per capire se fossimo svegli o stessimo sognando. Sono dei mostri, dei mostri. Sì. Buona la prima. Sono incredibili, cioè loro in realtà avrebbero fatto tutta buona la prima, tante volte sbagliavamo noi, pur essendo gli autori dei brani, però cioè incredibile, gli abbiamo messo davanti lo spartito, hanno ascoltato una volta il provino e via. Qual è l'orchestra? La Filarmonica di Roma. Ah, l'orchestra Filarmonica di Roma. Bellissimo, bellissimo, c'è poco da dire. Proprio, guarda, mi commuovo tuttora a pensarci. Bello, bello. E qualche volta mi sono pure commosso davvero. Ah, beh, ci credo, assolutamente. Più che altro è il sistema, cioè trovare questi 40 elementi, questi 40 professori d'orchestra, inserirsi in una band rock, non è... Sì, adesso molto spesso capita, però una band, possiamo dire, abbastanza emergente, certo, è una cosa sicuro, è una quello, cosa di un certo peso. È un privilegio che non viene concesso a molti, insomma, quello. Neanche gli mega artisti se lo possono permettere tanti. È capitato a noi, noi ringraziamo, prendiamo a braccia aperte e con il sorrisone stampato. Insomma. Fra l'altro li ha diretti Gianni, perfetto. Questa altra piccola curiosità Gianni è un produttore romano, vero? Produttore romano, esattamente. Gianni Herrera, che abbiamo già citato, è stato proprio lui il direttore d'orchestra e si è vestito per l'occasione quei giorni, cioè proprio si è vestito di nero completamente da direttore d'orchestra, pur essendo una persona molto scherzosa e molto amabile, però quei giorni si è calato nella parte, esatto, era serissimo e composto. Disco? Sì, facciamo un altro pezzo del disco. Allora, avete scelto la traccia numero 2 e andiamo subito a sentirla. Okay. Eccola qui, un attimino che arriva. Rockwave, l'onda del rock. Consapevolmente, consapevoli, ora che il mio estetico punto di vista sta modificando le cose, mi chiedo perché tu sia altrove. E sento che cola come olio su tela l'esigenza di sentirmi artista. Senza una musa non scrivo più. Non voglio confonderti fra i tanti rimpianti e soffro se ancora piangi. Adesso consapevolmente mi sento più fragile, partecipe della memoria che mi hai lasciato. Tu non smetto di picchiare la testa sul muro per quello che ho perso per strada. L'orgoglio era meglio tenerlo a bada. E non voglio perderti adesso che splendi. Rimango ad assecondarti. Consapevolmente mi sento più fragile, partecipe della memoria che mi hai lasciato. Consapevolmente divento sensibile, considero la nostra storia e meglio l'hai dato tu. E devo essere democratico, non ho più l'equilibrio e il senso pratico, ma la sobrietà ancor peggio della paranoia, maledetta mi cinge come il cappio d'un boia. E poi a me che mi importa, tanto fuori piove, perfino Gesù Cristo a volte stava male. Io voglio essere libero e ricominciare, ricominciare da me, ricominciare da te, ricominciare da... Consapevolmente mi sento più fragile, partecipe della memoria che mi hai lasciato. Consapevolmente divento sensibile, considero la nostra storia e meglio l'hai dato tu. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, abbiamo sentito la traccia 2 dell'ultimo disco dei Lor, Rabbia e Sole. La traccia 2 si intitolava Consapevole. Maurizio, meno di 3 minuti di canzone. E brano che all'inizio a me sembrava uscito dagli anni 80. Sì, beh, sono e d'accordo. Poi ad un certo punto è cambiato di brutto, è iniziato a tirare veramente alla grande. Mi piace perché state cogliendo delle cose, no, delle sfumature che sono state proprio cesellate. E però non tanti colgono anche questa cosa di farlo partire come un brano degli anni 80. Era proprio, ma c'erano wave. Dei suoni, sì, sì, sì, sì, proprio suoni wave. Noi siamo a rock wave, cavolo, ti giuro. Siamo a rock wave, non per caso. Ma non per caso. Vi no, rende merito questa cosa perché penso sia la seconda volta che mi capita che qualcuno ci intervisti o ci dedichi una puntata così ben centrata su quello che è il lavoro proprio. E state cogliendo cose che di solito non si dicono mai. E invece il bello di sviscerare un disco è anche questo, proprio la curiosità, sì, del, sì, lavoro che c'è stato dietro. Bisogna, sì, giustamente sezionarlo, capirlo musicalmente parlando. Questo Consapevole è un pezzo molto forte, sì. Abbiamo parlato dei synth, dell'elettronica, ma un'elettronica usata a misura umana, possiamo dire così, sì, sì, non troppo forte, testa, non troppo pregnante, una cosa giusta, una, sì, cosa, sì, mirata. Vero, synth vero. Rock, non synth pop. Esatto, esatto. E beh, rock, il gesto non, si, rock poteva, non si può vedere in radio, però era perfetto. Calzava pennello. Dal vivo come l'ho fatto un pezzo simile? Di pancia. Allora, di pancia, sì. Questa è di pancia. Questo è un pezzo dal vivo, assolutamente. E infatti, cioè, fino a qualche tempo fa, cioè prima che partisse il tour di Rabbia e Sole, lo facevamo utilizzando proprio i synth. Ah, okay. E quindi riproducevamo quello che esattamente si sente lì. E ultimamente ci siamo un po' più incazzati e abbiamo proprio voglia di tornare alle origini, quindi eliminato il computer, eliminare computer, sintetizzatori, suoni vintage al 100%. Virtuali, ma suoni vintage al 100%, quindi abbiamo messo, ma anche per differenziarlo un po' da quello che è il disco, che uno va a vedere la band e dice cacchio, però sono fighi dal vivo e sono molto diversi da quello che è il disco. Esatto, noi abbiamo messo in piedi uno spettacolo simile, capito, per questo tour. E volutamente siamo tornati un po' alle origini del suono, quindi a amplificatori valvolari di una certa età. E via al massimo. Sicuramente più di noi. Sì, sì. E alzati a manetta. E insomma, cercando di avere la resa massima anche perché ci divertiamo tanto, insomma, quindi. Posso dirti una cosa a te anche, Federico? Non può essere un rischio questo? La gente che sente un pezzo si può allontanare perché si è innamorato del pezzo del disco? Può essere, no? Però guarda che in realtà cambia pochissimo. Cioè noi le strutture e quello che sentite sul disco lo riproduciamo tale e quale. Mancano le figattine, insomma, cioè i colpi di tacco, capito? Che invece però facciamo inaspettatamente in altre maniere. Sugli stessi cambi. Però ho capito. Usiamo qualche cambio in più. Quello che era l'elettronica negli strumenti reali. Esatto. Cioè, cerchiamo di fare quello che fa l'elettronica con le chitarre e con gli strumenti reali. E non è mica semplice. E non è mica semplice. No. Il che infatti rende non poco difficile l'esecuzione live. però ci si rimette sempre alla prova tornando a come siamo partiti con questa intervista. Allora si suda come una volta. Si suda tantissimo. Tanti concerti e via dicendo. Sì. Sì, anche perché sta andando proprio bene. Abbiamo un tour bello farcito di date. Siamo già. Già una 15-16 sicuro, anche una ventina quasi. Anche una ventina. Visto che ci siamo, possiamo dire qualche febbraio. Data. Qualche data adesso? Allora, le prossime, sì, aspetta. Venerdì questo siamo a Somma Campagna, Verona. Verona. Il volo. Che è un locale? Sì, sì. Sì, è un locale anche molto carino. Sì. Poi il sabato successivo siamo al Baricentro San Martino Buonalbergo, sempre a Verona, con una band bresciana, bravissimi anche loro, che si chiamano Kaufman, molto molto interessanti. E sarà una segna serata. Maurizio, segna. Sì, ma sono venuti qua anni fa. Probabile. Sì, sono venuti qua anni fa, sono molto bravi. Sì, sì, perché sì. Hanno fatto l'ultimo disco che sono passati dall'inglese all'italiano, loro sono proprio Brit come stile. Anche loro suoni vintage di una volta così, e quindi facciamo questa serata dedicata al Brit e ci divertiremo come pazzi, e infatti sarà una di quelle serate, sì, da non guidare. Giusto, ci sarà sempre un autista. Ci sarà sempre un autista. Lo noleggiamo. Ma poi, dalle vostre parti ci sono locali che accettano, insomma, band con cose proprie? Sì, sì, sì. Sì, sì. No, in realtà poi non per dire che noi siamo fighi, però in realtà abbiamo una ti siete conosciuti, insomma, un pochettino, sì, cioè abbiamo un percorso alle spalle, soprattutto nel Veneto, che ci ha creato uno zoccolo duro importante. Infatti ogni volta che ci muoviamo, insomma, viene parecchia gente a sentirci e i locali sono contenti, per cui ci danno spazio anche per quel motivo lì, insomma. E dopo il 18 cosa c'è? Fine Sabbionetta, però abbiamo già fine maggio, cioè il 28, un'altra cosa, 27-28. Forse un altro in un locale al Bukowski di Verona, però deve ancora essere. Sì, poi siamo il 9 giugno a Sabbioneta Mantova in un festival che, beh, anche lì ci sono band interessanti, ci sono i Bud Spencer Blues Explosion, per dire. E quindi c'è del rock in ogni caso. Sì, proprio rock in piazza. Rock in piazza. e poi il 16 giugno siamo a Oppeano, sempre provincia di Verona, sul confine di Rovigo. E anche perché fino adesso ci siamo già smazzati a Roma, Milano, siamo tornati sabato scorso, abbiamo fatto le scimmie a Milano, è stato un tripudio. È stato veramente una cosa soddisfacentissima, era pienissimo e tutti partecipi e che cantavano le nostre canzoni, quindi è stato... Dopo due ore stanchissimi... Non ci lasciamo andare a casa. Noi non volevamo, no, siamo stanchi. No, non uscite vivi se non fate il bis. Esatto, abbiamo dovuto fare tre bis. Perché... Ed erano tipo qualcosa come le due e mezza del mattino. Sì. Non ci lasciavano andare. È una cosa bella. Sì, sì, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto parecchie città. E, insomma, sta andando molto bene. Siamo molto soddisfatti. Adesso dovete fare il bis. Qua cosa suoniamo adesso? Adesso facciamo un brano che nel disco è molto, molto rock. E per l'occasione l'abbiamo rivestito acusticamente, come hai detto tu prima, e l'abbiamo reso un po' più intenso, ed è il brano del disco forse più importante assieme a Tredicesima Stella dal punto di vista testuale, perché parla, è la storia di un tossicodipendente che ho conosciuto in prima persona e che purtroppo non c'è più. Si intitola L'eroe. Proviamo a cantare la sua storia. Mi sveglio nella notte che mi si brucia il sangue. La mia astinenza non mi mollerà. Correvano i 70, il buco era una moda, fratelli di speranza e vanità. Cerco pace nel silenzio. Io il tuo eroe, tu la mia eroina. Il vomito mi spezza e sento i tagli sulla schiena. L'amore di mio figlio non mi salverà. Perché con te sto bene, ma poi come sempre svanirai. Con te sto bene, con te sto bene, e so che i miei sogni spegnerai. Con te sto bene. A volte faccio a botte per guadagnarmi dosi di buon umore ed d'auto, sì, ma mi affido un po' alla sorte. Combatto nel 2000, ma il pregiudizio resta e resterà. Cerco pace nel silenzio. Io il tuo eroe, tu la mia eroina. Il vomito mi spezza e sento i tagli sulla schiena. Mio figlio ora è padre, non mi vuol parlare. Perché con te sto ancora bene, ma poi come sempre svanirai. Con te sto bene, con te sto ancora bene, soltanto dolore porterai. Con te sto bene. Ma ora io svanirò nel mio nulla, non disturbo, solo un cenno ad un figlio che ho deluso. Siamo schiavi del potere che ci spariamo in vena. Angeli bruciati con il sangue che diventa cera. E forse qualcosa lascerò. Con te sto bene, con te sto bene, e urlo il mio dolore, e urlo il mio dolore. Io sto bene. E forse qualcosa lascerò. Con te sto bene, con te sto bene, e urlo il mio dolore, e urlo il mio dolore. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Emanuele Tinazzi e Federico Pilon, ovvero sì, loro l'hanno trasformato questo pezzo, è diventata una ballata, ma una ballata sofferta che poi esplosa alla fine. Questo aveva un testo molto forte, molto sì, importante, sì, sì, sì. E il pezzo era un rock potente, energico, e l'avete modellato con un finale molto alla Jeff Buckley, bravo, guarda, alla Jeff Buckley, un finale più portentoso. L'hai tutte. Detto tu, stanno azzeccando tutte, non c'è no, era proprio anche lì il senso voluto, visto che comunque per entrambi, siccome un po' di merito su questo possiamo prendercelo, anche in maniera non proprio del tutto modesta, però io e Fede abbiamo proprio lavorato sugli acustici, perché capita spesso per esigenza di dover fare showcase in acustico. Certo. E quando hai un disco come il nostro, prenderlo in acustico ti viene un po' il sudore freddo, perché c'è talmente tanta roba, l'orchestra, l'elettronica, pieno di chitarre, talmente tanti suoni, è registrato talmente bene. Sembra un delitto toccarlo. Che dici, cavolo, se tu non riesci a riprodurre esattamente quello che c'è lì sopra, ti tirano dietro i pomodori. Certo. Allora abbiamo cercato di distruggerle, smantellarle da zero e cercare di dare un'anima, proprio come se fossero canzoni diverse. In realtà quello che coincide sono le linee vocali e il testo, chiaramente, però tante parti di cantato sono come intenzione diversa e tante parti di chitarra sono come intenzione diversa, che secondo noi in questo abbiamo su qualcosa più, qualcosa meno, comunque fatto un bel lavoro, perché ci sono voluti mesi per farlo, ma siamo soddisfattissimi. Molto. E siccome Jeff Buckley è per entrambi un punto di riferimento inarrivabile, e uno dei dischi che portavamo sull'isola l'anno scorso, tutti e due, vorrei ricordarlo, ricordiamolo, esatto. Quindi avete proprio beccato anche stavolta in pieno l'intenzione e il mood, perché era l'intensità finale, sai, a me è venuto in mente questo, che l'intensità finale. Grace è un disco meraviglioso e Jeff ha quella capacità di dare, pur avendo una chitarra pseudo acustica, di dare una forza incredibile alla fine. Ah, sì. E voi avete trasformato il pezzo nel senso positivo del termine, e io e Sergio ci siamo guardati un secondo, abbiamo capito, cioè trasformandolo, ma non snaturandolo, trasformandolo, dandone un input positivo, sì, un'altra anima, e questo è quello importante. Ringraziamo anche Sergio dall'altra parte del vetro, allora, che condivide l'idea di Maurizio. Insomma, sta andando tutto bene stasera. Però, sì, a parte il cellulare, momento, tutto bene. A parte il cellulare di prima, che non mi è mai successo in 10 anni, però insomma, no, ecco, c'è una cosa da dire su tutte le canzoni in acustico, cioè chi non ci ama per niente di tutto questo lavoro che abbiamo fatto per mesi sono gli altri due componenti del gruppo. Ah, ho capito. Perché chiaramente è scaletta doppia. Certo, certo. E se la sono dovuti imparare per forza, perché questo mondo qui chiaramente è vostro. No, e poi è diversissimo da quello, certo, che abbiamo registrato sul disco, quindi è talmente diverso che è come se fossero, come ti dicevo prima, canzoni diverse, quindi ci odiano parecchio, perché quando molto spesso si confonde l'una e l'altra versione, quindi c'è un po' di casino, però è bello, secondo le prove me servono a quello, vero? Dila è passato dall'acustico all'elettrico, voi siete passati dall'elettrico all'acustico. Esatto. I pomodori non sono arrivati. No, a Dila sì, no. A voi no. Vedi. Ma è dai, un'esposizione. Sì, a famoso festival Newport, lui ha cambiato, cioè ha passato all'elettrico e ha cominciato a ricevere un sacco di pomodori o qualcosa di sì, quel sì, genere. Qualcosa sì. Gli tiravano perché per loro è stata una rivoluzione, la gente che ricordava Blue in the Wind, delitto, sì, un sì, delitto, sì. Non era un delitto, aveva aperto un'altra strada. Certo, un altro mondo, un'altra epoca, un'altra era. È il lato brutto di quando diventi idolo per certe persone, sì, che ti vedono come un'icona, quella devi sempre essere. Ma tanti artisti insomma, infatti sono anche molto vincolati a questa cosa, secondo me, cioè dal punto specie di più vista successo fai, secondo me. Sanno che sono amati per quello che sono stati un tempo, per quella cosa lì, e devono fare qualsiasi cosa che assomiglia a quella cosa sì, lì, questo è chiaro, e comportarsi in quella cosa lì. Ma io, parlando anche con svariati artisti di un buon calibro, insomma, che sono arrivati a fare parecchi numeri in Italia, mi hanno confermato in tanti questa cosa. Non a caso Ligabue canta la stessa cosa da 15 anni. Esatto. Cosa dico? Sì, sempre questo. Però è vero, ha sì, trovato sì, la formuletta. Perché i fan la vogliono così. E esatto, lui se gli sì, dà qualcosa di diverso, magari vorrebbe crescere, però guarda, anche nel mondo dell'alternative, solo il fatto, il percorso di Marlene Kunz, sì, per farvi un esempio, loro sono stati a Sanremo, sono partiti appunto quest'anno, sì, sono partiti iper esplosivi, certo, erano incazzatissimi, erano il gruppo più noisy in assoluto, sì, in Italia, e avevano un seguito della Madonna, perché avevano bissato all'epoca un po' quello che era il mega botto degli After Hours, sì, nel mondo indipendente, no? Certo. E sono cresciuti assieme. I Marlene si sono evoluti in una dimensione un po' più letteraria, sì, se vogliamo, anche testi di lui sono gergale, molto particolari, esattamente. E questo affinamento è stato capito da pochissimi fan dell'Ora Zoccolo Duro, ma parlando proprio con Cristiano, e mi spiegava queste cose e hanno perso migliaia di fan proprio perché non erano più incazzati come visto una volta. Che parliamo di Sanremo, ti hanno chiesto su Sanremo e tu hai parlato di Marlene Kunz, hai tirato fuori Marlene Kunz, e cosa ne pensi della svolta? Perché secondo me il pezzo di Sanremo di Marlene Kunz era né carne né pesce. Sono rimasto un po' Deluso. Sì, sì, devo dire la verità, anche perché io l'avevo visto lui 2 giorni prima. Ah. Che ero andato a sentirlo, eravamo andati a sentirlo assieme San Giovanni, altro, in uno spettacolo acustico organizzato da nostri amici, proprio 2 giorni prima di Sanremo. Di Sanremo. E quindi, cioè, parlandoci, sembrava che fosse il pezzone della svolta. E invece quando l'ho sentito, poi riascoltandolo comunque ha delle particolarità, però, anche su disco, intelligenti, come tutti i brani di Cristiano e dei Marlene. Però mi aspettavo una roba... Ma nonostante mega, tutto, mega sì, che sì, non sì, è arrivato. Quelli che hanno fatto il bot sono stati gli After Hours. Difatti, hanno fatto un pezzo assolutamente non sì, sarremesso. Sì, sono andati via subito. Sì, sono d'accordo. Però sono stati conosciuti ancora di più e apprezzati ancora di più. Dai, hanno cresciuto il loro fan. Hanno vinto anche il premio della critica. Di solito esatto. Chi esce subito vince il premio della critica. Sì, quell'anno c'eravamo anche noi. Che non ha vinto il premio della critica, però è cresciuto molto con Vita Spericolata. Quello era un pezzo diverso. Dopo, chiaramente, i tempi corrono. Sì, chiaro. Stare al passo coi tempi non è sempre facile, avere la propria identità nemmeno, e se si tornando al discorso per il quale siamo arrivati fino a questo punto, se si vuole avere una certa coerenza verso se stessi dal punto di vista artistico, è chiaro che è facile da dire così e da un emergente, però bisognerebbe cercare di ascoltare sempre più il cuore e l'istinto che il botteghino, insomma, è quello che fa mercato. Però so che è un ragionamento molto difficile, soprattutto a certi livelli. Chiaro. Bene, Sergio, cosa dici sulle 23.03? Facciamo un altro pezzo da disco? Cosa mettiamo un altro pezzo da disco, okay. Allora. Che cosa abbiamo scelto? La traccia numero 5, Febbre al silicone. Ah, questa è una traccia importante, dopo la spieghiamo. La spieghiamo dopo, cosa dici? Sì, anche perché dopo... poi c'è una versione un po' diversa. Sì, state ben attenti a quello che state per ascoltare, perché poi la riproporremo dal vivo e sarà completamente un'altra cosa. Benissimo. Ma molto più folle. Ok. Rockwave, l'onda del rock. Lo sai che non sono romantico, ma se mi impegno ti giuro do il meglio di me. Mi parli, mi trovi simpatico, ma io guardo il tuo bel silicone. Mi stanca il tuo amore rifatto, perché rifatto è il tuo corpo che scalpita. Perciò se divento romantico, mi sa che ho la febbre. La tua febbre al silicone. Anche me la tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. Mi attrae la tua vita fantastica, fatta di scarpe, Swarovski e di plastica. Vale l'estetica. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. Altro che te. Allora, io non so se la facciate così anche dal vivo, però questa è fatta per ballare, insomma, per saltare alla grande, veramente. Febbre al silicone dei LOR, ospiti questa sera in Rock Wave Live del mercoledì qui a Blu Radio Veneto. Un attimo, aspetta, che vi saluta Gianluca di Radio RCS. Grandissimo Gian, salutacelo tantissimo. Sta ascoltando. Bene, mi fa piacere, salutacelo tantissimo, contraccambia. Siamo stati anche da lui un paio di... no, un mesetto e mezzo fa. Bene. Beh, Gianluca, personaggio di grande valore. Sì, anche sceglie sempre le band ad hoc. Ne sa moltissimo. E adesso parliamo di questo testo molto particolare, nato da una voce, da un'idea, da qualcosa, adesso la spieghi. È praticamente, io avendo un po' vissuto fra l'Italia e l'Inghilterra negli ultimi 3-4 anni abbastanza spesso, ho conosciuto delle persone in Inghilterra, un mio carissimo amico tuttora, un giorno mi racconta questa sua storia e mi dice: guarda, sono andato in un club e ho conosciuto questa tipa incredibile, mi sa che ho perso la testa. Allora entra nel dettaglio e mi dice: guarda, io questa ragazza l'ho vista, era la più avvenente del locale in quel momento lì e mai avrei pensato si degnasse di discutere con me, no? E allora io mi sono avvicinato, mi sono fatto coraggio, anche avendo sbevacchiato un po' di più e è arrivato là e si è trovato davanti questa bambola di plastica, perché era veramente rifatta. Mamma mia, bellissima. E aveva un seno enorme, le labbra, cioè proprio era la Barbie, chiaramente. La volgarità fatta a donna. Però era molto bella, era sì, molto bella. Ma sicuramente era una scena. Esatto, non era proprio di quelle volgarissime, insomma. Allora ci si mette a parlarci e lui parte chiaramente con mille pregiudizi, dicendo: questa mi va bene per una notte e se riesco a farmela dare altrimenti non si combina niente. Insomma, per tagliar corto, dopo 10 minuti che ci parlava scopre che lei era un ingegnere aerospaziale. Perfetto. E hanno cominciato a parlare di musica, di arte, e ne sapeva a pacchi, e cioè lo sommergeva lui, capito? E questa cosa dell'apparenza come ha ingannato anche lui. Quando mi ha raccontato questa storia ho detto: prima o poi ci devo fare un pezzo. Ed è nata così Febbre al silicone. Fra l'altro, fra parentesi, piccolo gossip, lui poi ha sposato questa ragazza e adesso sono marito e moglie. Perfetto. Quindi è molto carina come storia, mi sembrava carino portarla in musica. E la musica si sente, cioè dallo specchio di questa storia, musica molto pulsante, sì, c'è anche proprio. Il batterista adesso, che non c'è stasera, che dà un certo contributo, non da poco. Al pezzo. Cassa in quattro e via a pedalare. Sì, è proprio è nata così anche per il testo, che comunque è molto scherzoso. Sì, esatto, molto ironico. È molto ironico, voleva essere proprio qualcosa di danzereccio quasi, come indole, come istinto. E quindi è venuto fuori questo arrangiamento molto pompato, molto dance. Ma caso in quattro via andare a pedalare. E adesso invece lo cambiate in versione acustica. Vediamo cosa succede. Allora. Di prima. Che nel live è un po' un momento di ilarità per tutti. Perché ecco, facciamo cabaret. Allora, questa cosa qui io mi dissocio, perché l'unico responsabile è il maestro Pilon Federico, qui presente. Che un giorno, spiegaglielo tu com'è successo. No, diceva: dobbiamo preparare dei nuovi pezzi, perché insomma, oltre a un po' di cover, giustamente per fare riempire le due ore, dobbiamo andare avanti un po' il disco, cercare di rifarne qualcuna. Lui parte con il giro di chitarra, comunque essendoci l'acustica, e io lo guardo e gli dico: ma perché non facciamo qualcosa del genere? Abbiamo riso per 4 ore, non riuscivamo. Sai quando proprio non riesci a finire la canzone? Ecco, ogni veniva fuori poi l'idea da lui, l'idea da me, eccetera, eccetera. Insomma, dopo 5-6 ore abbiamo partorito. Sì, e ti giuro che la prima volta che l'abbiamo fatta dal vivo abbiamo dovuto guardare sempre per terra, perché sennò era un ridere. Se c'era uno scambio di sguardi, non finivi la canzone. Perché ci sono vari momenti nell'arrangiamento, adesso sentirete, in cui la cosa diventa veramente cabarettistica, no? E insomma è nato questo, come si può definire, un mezzo jazz bossa nova, qualcosa del... Giudicate voi. Bene, bene. Ok. Maestro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. three, one, two, three, one, two, three. Lo sai che non sono romantico, ma se mi impegno ti giuro, do il meglio di me. Mi parli e mi trovi simpatico, ma io guardo il tuo bel silicone. Mi stanca il tuo amore rifatto, perché rifatto è il tuo corpo che scalpita. Perciò se divento romantico, mi sa che ho la febbre. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. Fantastica, fatta di scarpe, Swarovski e di plastica. Risparmio parole dialettica, con te prevale l'estetica. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. La tua febbre al silicone, ti prego non voglio che contagi anche me. Cambio! Ma cosa succede? Ti piacciono i libri? Ascolti Vivaldi e adori Van Gogh? Detesti il mondo di Briatore e Gregoraci? Ora che so queste cose forse un po' mi piaci? Mi sa che divento romantico, perché ti guardo e non vedo nient'altro che te. La tua febbre al silicone, lo sai, sto capendo che ha preso anche me. Lo sai, sto capendo che per me è importante. Usavo il metro sbagliato per giudicare. Sto bene, ho la febbre, sto male. Usavo il metro sbagliato per giudicare se sto bene, ma ho la febbre e sto male. Ole! Non ho parole. Aspetta, metto la base, va. Veramente simpatica. Decisamente. Eccezionale, eccezionale. Questo era quanto. Proprio completamente diverso. Sì, sì, sì, sì, sì. Proprio cabarettistica, c'è sto spirito madrilero che sul finale avanza e la gente rimane di stucco e poi scoppia a ridere quando la facciamo dal vivo. Le prime volte è stato... I tuoi due colleghi erano soddisfatti di questa interpretazione? Beh, loro l'hanno ascoltata. L'hanno scoperto. Loro l'hanno scoperto. Una sorpresa gli abbiamo fatto. Abbiamo fatto una... un aperitivo, diciamo, a presentazione, a presentazione a Feltrinelli. Alla Feltrinelli, Feltrinelli a Verona praticamente, sì. Ed eravamo io e lui in acustico, però ovviamente dovevano esserci anche loro perché insomma è una presentazione ufficiale. Certo, certo. Loro sono arrivati, tutti. Noi abbiamo fatto mezz'oretta di concerto, tranquilli, abbiamo fatto un po' di canzoni, poi li abbiamo portati a noi. Nel senso, detto, adesso venite anche voi a fare la figura di... perché... esatto, così la si fa tutti assieme. E loro non avevano idea di cosa stavano per ascoltare. E insomma, e alla fine non so se le facce erano abbastanza eloquenti, erano sconvolte, erano viola, erano. Non so se volevano tirarci dietro scarpe o applaudirci, però insomma alla fine hanno detto guarda siete stati molto molto simpatici, quindi la cosa ha funzionato. Ma poi c'è stato, poi a Feltrinelli c'è stata un'innovazione incredibile, è piaciuto molto. Per cui, anche perché è un momento che stempera un po' anche, certo, quello che è l'argomento del, gli argomenti del disco, che in realtà sono molto importanti, sì, molto duri su certe altre cose. Si parla di violenza contro le donne, di tossicodipendenza, di difficile accettazione sociale, per cui è inserimento nello sociale stesso. Quindi c'è uno sguardo nel sociale non semplice, insomma. Esatto. Il brano così un po' più leggero, un po' più fresco, frizzante. Facciamoci una risata. È il guizzo giusto per spezzare un attimo l'atmosfera. E durante il concerto dove lo piazzate questa rivisitazione? In che momento? A tre quarti. Sì. Anche perché poi in quel momento lì noi che siamo magari vestiti con la camicia, sì, normale, perché c'è anche perché la parte visiva che voi vero non e vi proprio aspettate, perché c'è tutta una presentazione dove io e lui ci vestiamo e ci mettiamo cilindro, papillon e bastone. Bello, e quindi facciamo questa cosa che quindi si crea l'attesa, no? Proprio la suspense è molto molto cabarettistica, e però vediamo, cioè noi ci divertiamo come pazzi. Ti dico la verità, Maurizio, quando lo facciamo sappiamo già che i 5 minuti successivi io e lui staremo ridendo dentro. Bene, bene, una cosa interessante. Salutiamo e ringraziamo David Bonato, che è stato, che ruolo ha David Bonato praticamente? Ma come lo possiamo definire? Ormai è un secondo padre, perché David è stato il primissimo a credere in noi e il primissimo a darci la possibilità, con Gaetano Morbioli all'epoca, che lui era direttore artistico della RAM Multimedia, della casa di produzione di videoclip di Gaetano, a darci la possibilità di girare un videoclip professionale di un brano vostro e di promuoverlo. Certo. E lui ha un ufficio stampa molto forte che si chiama Davvero Comunicazione, dal quale poi è nata anche la sua etichetta, Vurek, sì, che ha pubblicato i nostri primi due dischi. Certo. E quindi ormai per noi è un connubio inscindibile, perché se si parla di Lorne non si può non parlare di David Bonato, ed è parte integrante della band. Io lo vedo come, noi lo vediamo un po' come un componente della band stessa, c'è dappertutto, ci segue sempre e ci fa lavorare molto, molto bene. E con lui ormai si ha un'intesa che va al di là della parola, ci si conosce talmente bene, talmente tanto, che anche lavorativamente parlando sappiamo benissimo che obiettivi perseguire, certo, e che, certo, cosa prefissarci. Quindi è una guida, perché comunque dell'esperienza che ha lo rende tale ai nostri occhi. Ma è anche un fratello e soprattutto un ottimo autista quando noi torniamo, esatto, a casa sbronzi. Non è poco dai che concerti, non, che non è poco, non è poco. Benissimo, salutiamo anche Alberto Fisco, che è il nostro curatore, cura tutti i concerti, e grazie anche a lui stasera siete qua. Grazie mille. Grazie. Benissimo, sono le 23:20. Cosa dici, Sergio? Abbiamo fatto sentire un pezzo. Io vorrei, siccome questo è un live, facciamo un altro pezzo dal vivo. Dai. Sì, dai, ci sta tutto. Dopo il divertissement del precedente, esatto, cosa facciamo adesso? Tredicesima. Questo è un pezzo molto bello che io ho scelto. Esatto, è quello come che pezzo sentite che va in onda. In rotazione, no? Sì, in rotazione. L'ho messo su perché a me piaceva molto. Un pezzo sofferto e poi parla di un testo molto importante. Anche musicalmente è complesso, non è semplice. Ha un sacco di ripartenze, di stop, di fermate, di ripartenze, di evoluzione, di colorazioni. Sì, questo come l'eroe è l'accoppiata con l'eroe è un po' l'accoppiata dei brani più intensi, sì, dal punto di vista testuale e profondi del disco. Questo è un brano che scritto per una manifestazione di Amnesty International, per la quale siamo stati presi in considerazione un anno e mezzo fa quando eravamo a Roma, e per l'occasione io ho sentito di scrivere questa cosa e è piaciuta talmente tanto che doveva, secondo tutta la produzione ma secondo noi anche, essere inserita nel disco. Si intitola Tredicesima Stella ed è un brano contro la violenza sulle donne, che tratta la storia vera di una donna, anche questa che ho conosciuto, e però tocca l'argomento con una visione positiva e di speranza, data dal fatto che in situazioni simili il silenzio genera mostri e la denuncia risolve sempre. E quindi vuole dare questa luce, gettare un po' di speranza su quelli che sono molti purtroppo e non vengono menzionati dai network, dai media molto spesso, molti casi di violenze domestiche che subiscono le donne, e tredicesima stella per loro. Maestro Pilon. Per questa volta, sai, non credo che rimarrò con le mani in mano. Nascondi quei soprusi e lividi che segnano tuo figlio da vicino. Ma io sarò come tu mi hai sempre chiesto. Mi trasformerò in un tuo riflesso. Io e te siamo uguali, siamo esseri speciali. La violenza nel tuo mondo mi sfinisce. Io ti porterò con me, lontana da una vita in cella. Dall'alto ammireremo il mondo io e te, la tredicesima stella. Guardi il tuo uomo e vedi un cane, poi il tuo cane ti sembra davvero un po' più uomo. Se aspetti e preghi anche stavolta, il tuo silenzio ti schiaccia e traveste il tuo sorriso. Ma io sarò come tu mi hai sempre visto. Da te imparerò ciò che ancora non conosco. Io e te siamo uguali, siamo vivi e mai banali. L'occhio chiuso e l'ignoranza ci ferisce. Io ti porterò con me, lontana da una vita in cella. E cambieremo anche la sorte io e te, per non soffocare. Io ti porterò con me, e tu con me sarai più bella. Combatteremo anche la morte dalla tredicesima stella. No, non devi rinunciare al tuo amore, è vero. Non devi mai lasciarti andare al dolore, perché se resti schiava il tuo aguzzino ti divora. Rimani senza lacrime, quel pianto mortifica. Qui c'è troppa gente che ti stringe e consola, che vede, non parla e poi si fa giustizia da sola. E mentre aspetti la tua mente si ammala ancora. Lo sai che c'è, lo sai che c'è. Io ti porterò con me. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio Veneto, ancora all'interno di Blu, sì, buonanotte, di Rock Wave Live del mercoledì, insieme a me Sergio e a te Maurizio. Sì, questo è un pezzo bellissimo, l'esecuzione che hanno fatto Emanuele e Federico, in versione acustica dava un che ancora superiore al pezzo. Il pezzo, già il testo è molto importante, e l'acusticità e soprattutto l'impasto dei cori e delle voci a me è piaciuto moltissimo, mi ha dato una sensazione molto positiva, e questo vuol dire che il lavoro rende, secondo grazie me. Di cuore, grazie. Lavoro, grazie, il pezzo era, l'esecuzione a live acustica, secondo me avete una un percorso da continuare sul live acustico, guarda, è una cosa molto positiva. Lo stiamo sviluppando il più possibile perché ci piace molto come dimensione e ce la sentiamo proprio ben vestita addosso. Si sentiva proprio stasera, in questo momento, in questo pezzo così sofferto, ma questo impasto di voci era perfetto e proprio lo faceva scivolare, anche se il testo era così importante, portava avanti, lo alzava praticamente dal punto di vista musicale. Grazie. Io l'ho sentito così. Grazie, davvero. Bene, 23-27, cosa dici, Sergio? Io vorrei fare la famosa domanda, sai, dell'isola deserta, velocemente. Infatti aspettavo, perché di solito alle 11. Non sono abituati a questa domanda dell'isola deserta. Allora, facciamo quello che cosa... non hanno detto l'altra volta, magari. Vi ricordate cosa avete detto l'altra volta? Quindi dovete dimenticarvelo assolutamente. Tutti e tre potrei di ricordarmele, però... io sì che me li ricordo. Allora facciamo così, sono 23-27, facciamo tre pezzi velocemente, tre dischi, tre momenti che vi piacciono in questo momento. Allora, visto che Jeff Buckley non si può più dire, l'abbiamo già citato. Quindi. Allora, in questo momento, dai, spara ci tu. Penso, Fede. Ci sto pensando. Allora, c'è un artista bravissimo, non mi ricordo il titolo perché sono due album. Mm. Si chiama Damiens. Damien Rice? No, Damiens. Damien è un francese. Non lo conosco. Allora. Che ha aperto. Ma indipendentissimo. Ah, sì. Che ha aperto uno dei concerti di uno di quei gruppi che avrei portato sull'isola, che erano i Porcupine Tree. Li ha aperti a Milano un paio d'anni fa. E lui ha registrato tutto il disco da solo, batterie, chitarra, voce, eccetera, e ha fatto un lavoro, secondo me, dal punto di vista sonoro, straordinario. Cercherò di ascoltarlo qualche parte. Il primo disco, il secondo l'ha fatto con il gruppo. Il primo, secondo me, è un capolavoro. Non mi ricordo il nome del disco, però, in questo momento. Si chiama Damien. Damien's. Sì. Ne hai detto uno. E tanto puoi dirne un altro che tu adesso. Allora, sparo il mio. Dave Matthews. Ah. Quanti dischi dal vivo ha fatto Davis Matthews? Ma penso una cinquantina. Sì. Sì. E io ho ritirato fuori il live a Central Park a New York la settimana scorsa. Non sono ancora riuscito a toglierlo dallo stereo. Era forse qualche anno che non lo ascoltavo, almeno 5-6 sicuramente. E sono rimasto impressionato di nuovo da quello che senti. Cioè, l'esecuzione di quella roba dal vivo è tutto veramente dal vivo, non come live. Che vanno di moda adesso con 70 milioni di sovraincisioni poi in studio. Quello è tutto dal vivo, quello che senti e quello che hanno suonato quella sera. È impressionante. Loro sono dei mostri. Cioè, non so neanche quale dire che degli elementi che sia il mio preferito o quale il pezzo preferito. Un altro gruppo similare, non proprio similare, sono i Fish. Sì. Anche loro, i Fish, anche hanno quella caratteristica di suonare sempre assolutamente live. Sì. Sono rimasti quelle cose veramente irraggiungibili dal punto di vista musicale, certo, per doti tecniche, un po' per nascita, perché comunque ci sono nati, cioè lì hanno preso secondo me qualche congiunzione astrale, hanno messo assieme i migliori musicisti del mondo e mi hanno detto vabbè, facciamo un super progetto, è nato Dave Matthews. Tocca a te, Federico, adesso. Un altro che invece ultimamente mi sta impressionando è un inglese, si chiama Fink, F-I-N-K. Bravo, quello. Mi fa impazzire la sua voce. L'ho scoperto per caso e mi sono letto anche la sua storia. Volevo dirlo io, me l'ha fregato. Che fra l'altro me l'ha fatto conoscere lui. Ah, perfetto. Quindi... mi ha impressionato perché lui era un DJ, comunque un disc jockey. Ha cominciato a fare qualcosa con la voce perché ha detto prova a cantare che è una bellissima voce. Ha imparato a suonare la chitarra in un modo suo particolare, solamente finger picking. E però, non lo so, emozioni a me. Sì. Non esagera mai, è quel musicista che a un certo punto ti aspetti il boom, invece lui sempre ti tiene lì e ti tiene quel controllato, sospeso. È controllato. Allora, visto che ne abbiamo parlato prima, io li cito, sono sempre e resteranno sempre i miei beniamini. After Hours, Padania. Ah, Padania, l'ultimo disco. L'ultimo disco, perché visto che è proprio l'ultimo disco e che tanti stanno maldicendo perché è troppo difficile, è vero che è un disco difficile, ma io, come ti ho detto prima fuori onda, lo sto ascoltando, lo sto apprezzando, perché è un ritorno importante a una cosa a cavallo fra Germi e Hai paura del buio, che sono i due capolavori After Hours, e il ritorno di Xabie si sente tutto, chitarristicamente parlando, e questo mi ha dato, mi ha fatto tornare all'epoca, quei momenti, quei ricordi nel 99, quando andavo a spaccarmi e ho fatto un tour che li ho seguiti tutti, ma tornavo a casa con le ossa rotte, occhi neri, insomma, ho fatto le mie. Ero in berbe, non ancora maggiorenne, per cui insomma, bei ricordi, e mia Padania mi sta regalando quelle sensazioni. Ho capito, tocca all'ultimo. Allora, io comprerei una cover doppia, così metto due CD diversi e li porto via insieme. Si può fare una cosa del genere? Facciamo anche così, dai. Sì, perché tu sono dici il terzo mio, perché io ne ho detti solo due. Allora, ci sarebbe i Foo Fighters, perché... Quali i Foo Fighters? Perché li ho visti dal vivo l'anno scorso, vorrei andare a vedere anche quest'anno, è 40 anni però... Ma l'ultimo? L'ultimo sono molto contento perché l'hanno rifatto su bobina. Ah. E per sentire anche tutti gli errorini eccetera, ma una carica che ancora è devastante, secondo me, cioè, hanno una capacità di registrare e di fare, quindi Wasting Light. Wasting Light. Okay. E poi rimarrei sempre sulla musica un po' neurotica, come piace chiamarla a me, è 10,000 Days dei Tool. Ah, perché per me hai dato un sostantivo, una neurotica particolare. Tu hai ragione, cosa dici, Sergio? Pienamente azzeccato. Di tu, sì. No, confermo, poi mi fido del tuo. Sì, sì. Sei tu che ascolti tutto. E tu sei proprio così. Sto pensando un po'. Se ne hai ancora uno, Emanuele. A me toccherebbe un altro, però ne ha detti due lui. Wow, no, un'altra cosa. Saresti andato a vederli anche a Londra poco tempo fa. Un gruppo, esatto, interessante. Bravissimo. Io sono andato a Londra a seguirli perché mi piacciono da impazzire. Snow Patrol. Ah, hai ragione. Anche se l'ultimo disco è stato poco amato, molto poco apprezzato. Fallen molto... Empires. Però a me piace tantissimo. Io li ho seguiti nel tour. A parte che secondo me hanno scritto cose meravigliose, e nel tour fanno un concerto da 2 ore e 20. Con tutti i pezzi più famosi della loro storia. Ed è uno spettacolo anche scenografico bellissimo. Hanno fatto il salto definitivo alle mega platee. Sì, adesso sì. E soprattutto in America. Anche come proprio scenografie che vedi sul palco, ci sono tutti questi LED che formano, sai che hanno il simbolino del cristallo di neve, sì, no? Certo. Si scompongono queste fasce di LED gigantesche, pian pianino vengono giù e vanno a formare quello che è il cristallo di neve. È proprio molto molto bello anche come spettacolo. Io sono andato a Londra a vederli un mese e mezzo fa e all'O2 Arena mi hanno proprio conquistato, colpito definitivamente. Quindi Snow Patrol si direbbe, Fallen Empires. E io posso dirti una cosa su Snow Patrol, come si dice, io amo soprattutto le loro dimensioni folk. Sì, sì, vero. Perché sono partiti da là, poi sono diventati una band mondiale. La matrice irlandese rimane tutta, sempre, e rimane sempre. Loro sono mezzi di Belfast, mezzi scozzesi, un po' di tutto. Proprio la matrice dei canti e delle ballad celtiche rimane. Si sente tutto. Assolutamente. Tutto. Ok, adesso cosa dici, Sergio? Sentiamo un altro pezzo da disco? Sì, tu hai segnato di nuovo, vabbè, Meccanismi, la sentiamo dal disco. Oppure... No, non avevamo messo Meccanismi. No, infatti Meccanismi era l'ultima traccia, quella in più forse. Ah, il rapporto... Meno stabile. No, l'ultima traccia, quella eventuale, la 10, dedicata a Mia Martini. Sì. Allora, cosa volete fare? Facciamo un rapporto meno stabile. Il rapporto meno stabile, sentiamo quella allora. Al numero 7. Al numero 7, sì, hai ragione, scusa. Trovavo, eccolo. Ok. Stop. fermo troppo spesso per respirare. Stomaco, dottore, tolga il tutto, da troppo digerisco ogni fastidio. Somministri pure l'anestetico vitale, addormenti pure ogni forma di passione, ogni forma di dolore, ogni forma di dolore, ogni forma di dolore, ogni forma di dolore. Vabbè, ho sbagliato. Partita meccanismi. Però, è bello che ho anche detto mettiamola numero 7. la prossima. Se volete l'ascoltiamo anche subito. La prossima. La facciamo subito adesso. Ma volentieri. Ok, vai vai. Viviamo di strane tossicità che forse non vorrei, di corpi contorti nell'intimità in un bagno di sudore. Alcol e droghe superflue, anche se non dovrei, e troppi ormoni che ci posseggono. Tu mi vuoi, ma non lo sai, per colpa di una vita stressante. Già lo so, mi cercherai, docce me. Pochi giorni e presto lei mi dice che ha un lavoro ingombrante. Così propongo un rapporto meno stabile. L'esempio di ciò che succederà qui davanti a noi. Per necessità e poi non si fa l'amore. Alcol e droghe e superstiti, anche se non vorrei, e quegli ormoni ora ci invecchiano. Già lo so, mi cercherai, Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 23:43 minuti, sempre all'interno di Rock Wave Live del mercoledì su Blu Radio Veneto. Siamo in compagnia dei LOR, lo ripeto, L'OR, che poi è un acronimo, una sì, sigla, insomma. Sì, sì, sì. Che vuol dire? Sta per Like Outside Rain, mm-hmm, come la pioggia fuori. Abbiamo preso l'idea ancora dai simboli delle carte da gioco, come quando fuori piove. Abbiamo tradotto vero, in inglese la cosa maccheronica, era Like Outside Rain. Simpatica, simpatica. Ci abbiamo fatta, abbiamo sentito la traccia numero 7 finalmente dal vostro ultimo disco, Maurizio. Dicevo, Sergio, mentre era spento il microfono, a Emanuele e a Federico, a me piace molto la voce di Emanuele, oltre perché è potente e forte, perché canta in falsetto, perché è difficile cantare in falsetto e non stonare, ma chi canta in falsetto e non stona mi piace un sacco. È una cosa che mi hai sempre detto. Sì, perché il falsetto ha un certo qualcosa che riempie l'animo di gioia, di felicità, secondo me. È la cosa non proprio semplice tecnicamente, è la gestione del falsetto intermezzato alla voce piena, per cui sì, nella dimensione acustica questa cosa la devi usare spesso, perché anche la resa microfonica deve essere il più dolce e delicata possibile. Non puoi urlare come fai con l'elettrico, capito? Quindi è necessario l'utilizzo dell'acustico per certe tonalità. Ma il falsetto, del falsetto per certe tonalità. Il falsetto è bello, è positivo, secondo me. Dà la capacità di andare oltre certe cose, certi ritmi, certe maniere di interpretare. Esatto. Allora, adesso abbiamo deciso di fare questo noi tre, caro Sergio. Abbiamo deciso di sentire l'omaggio a Mia Martini, personaggio di grande statura, e messo da parte perché sapeva di viola, aveva un colore sgradito, ma perché un'artista che è la più brava artista dopo Mina, secondo me, è stata messa da parte per l'invidia del ramo dello spettacolo. Il brano cerca proprio di toccare quello che hai detto tu, cioè quello che è un estremo caso di ignoranza, sì, totale, che ha emarginato e distrutto la vita, anche quando era ancora in vita, certo, artistica, dell'artista forse più grande che abbiamo avuto in Italia dal punto di vista femminile, assieme a Mina, quantomeno al suo pari. E questa vicenda qui mi ha sempre toccato le corde profonde dell'animo. Io volevo scriverne e ne è uscita Buonanotte Mimì, questo omaggio che chiude il nostro disco e ha una dimensione molto acustica, sì, molto decisamente intima, acustica, con una sorpresa finale, insomma, ed è proprio quello, la liberazione. Anche il finale vuole un po' immaginare la sua liberazione dopo che, compiendo quel gesto estremo, ha messo a tacere tutti e tutto, purtroppo anche la sua voce. E io, pur non avendola vissuta anagraficamente parlando, Mia Martini l'ho apprezzata grazie ai miei genitori poi, e l'ho amata totalmente e tuttora la amo, ed è una cosa tristissima pensare alla sua vicenda e alla sua storia, ed è un gran peccato, perché come grandissimi che sono scomparsi prematuramente, avrebbe potuto darci ancora tantissimo. Certamente. Io ho preso tanti anni fa il suo primo disco, che aveva una caratteristica, io sono molto amante di Cat Stevens. Il disco era scritto da Coggio, mm-hmm, sai, l'autore di Sabato Pomeriggio, di Baglioni, di altre cose. Aveva tradotto Coggio, Chi per lei, Into White, che era un pezzo di Stevens, e l'aveva cantato sto pezzo, Mia Martini Manione, favolosa, l'aveva, certo, ricreato. Into White è un pezzo meraviglioso di Cat Stevens, e comprando quel disco ho capito, cioè si parla di molti anni fa, la grandezza di questo personaggio, lo spessore che aveva. Verissimo, verissimo, purtroppo è. Vabbè, siamo viva l'Italia. Sì, viva l'Italia. Sentiamo allora questo omaggio a Mia Martini. Rockway, l'onda del rock. Chissà come stai, se fuori piove o c'è il sole, se tante stelle ti guardano e non rispondono. Chissà come stai, se paghi ancora le scelte fatte, o se ora brilli nel tuo silenzio. Mi chiedo se stai piangendo, dimmi se questa è vita, se c'è una porta aperta o c'è una luce accesa, io ti ascolterò. Buonanotte, Mimì. Gli angeli del cielo adesso cantano con te. Stammi accanto, Mimì, io ti sento. Stammi accanto, chissà come stai. Se stai volando chiedendo aiuto, se gli anni passano e non ti tengono su. Ma forse questa è vita, ci sono porte aperte e tante luci accese che ti ascoltano. Buonanotte, Mimì. Gli angeli del cielo adesso cantano con te. Buonanotte, Mimì. Tutto questo cielo adesso brilla anche per te. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ultima decina di minuti di Rock Wave Live del mercoledì. Maurizio, pardon, abbiamo avevo pigiato il tasto sbagliato, il tastino sbagliato. Abbiamo sentito Buonanotte Mi con finale di sofferenza, si sente questo finale pomposo, forte, potente, perché doveva essere così. No, mi ruba i termini. Doveva essere così. Cioè, guarda, grande Maurizio, grande, ti ringrazio davvero. Bellissimo pezzo che conclude degnamente un disco variegato, ma vostro, sofferto, ma vostro. Sì, si sì, sente proprio al 100%. Tutto al 100% nostro, al 100% vissuto. È vissuto, quello è importante. E se si sente, vuol dire che insomma l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso abbiamo circa 10 minuti, come ha detto giustamente Sergio, e li utilizzeremo a suonando. Il primo pezzo, innanzitutto, diciamo il vostro sito, dai, ricordiamo il vostro sito. Vai, allora, www.l-or.it, dove troverete tutte le date, c'è la biografia, le ultime news, prossimi concerti, aggiornatissimo. No, no, è stato fatto molto bene, abbiamo rifatto il sito in maniera fantastica. Sì, è molto diretto, sì. Semplice. Di facile consultazione. WordPress, ho visto. È molto, molto. Sì, sì, sì, semplice. Beh, poi in realtà basta scrivere anche su Google, sì, l'OR, su ogni motore di ricerca, L'OR, i primi quattro link che vengono fuori sono tutti ufficiali. Il primo, nostri, il primo, sì, sì, sì. Perché c'è il sito, c'è MySpace, c'è Facebook, gruppo LOR su Facebook, Reverb Nation, altre piattaforme musicali, insomma, siamo un po' ben organizzati. Il disco anche fisicamente si può trovare nei concerti o nei negozi di dischi. Nei negozi di dischi, fortuna di avere una major alle spalle, è soprattutto quello che trovi il disco ovunque, anche nei megastore, cioè a MediaWorld, alla Comet, alla Fnac, Feltrinelli, cioè proprio tutti i megastore anche di elettronica, non solo che vendono esclusivamente dischi o libri. E nei portali? e nei portali dappertutto, da iTunes, a Amazon, a qualsiasi portale correlato. Volevate ricordare il grafico del disco? Sì, Alessia De Montis, che salutiamo, un bacione, che è la stessa realizzatrice di svariati album di Vasco Rossi, dal punto di vista grafico, e di quasi tutti i film di Gabriele Muccino. Ah, bene. E di Silvio, che è direttrice fotografia della scena. E ha fatto un bellissimo lavoro, abbiamo fatto questo servizio a Milano a Postal Market, vi ricordate Postal Market? Sì, certo, ce lo ricordiamo, Postal ora Market. La fabbrica è in disuso, chiusa, non esiste più. Non esiste più, è tutto allo scatafascio, e noi abbiamo chiesto il permesso al Comune di Milano di passarci un paio di giorni e metterla ancora più sul quadro per fare il nostro servizio fotografico. Bene, bene, è stata cosa. Poi mi pare un chitarrista dovete citare. Sì, manca, abbiamo parlato di Stefano Ripa prima, che ha partecipato alla realizzazione del disco, manca Maurizio Rosa, chitarrista di Anna Tatangelo, che ha fatto anche lui due brani assieme a me, registrati all'interno del disco. Benissimo, allora sentiamo un pezzo live e poi concluderemo con un altro live. Che cosa adesso? Il brano che dà il titolo al disco stesso, la title track, la title track. Ah no, no, la teniamo per la la gran teniamo chiusura, per ultimo, no? Perché il gran maestro finale sta facendo confusione in testa. Se sbaglio il maestro mi riprende. Il malefico sta dicendo malefico lo stava dicendo è un po' malefico il no dai non lo è, dai poverino. E aspetta, non mi ricordo. Ah sì, sfiorami, sfiorami. Che cavolo, eccolo, hai trovato, siete bene. Allora, è la ballad più folk del disco stesso, ambientata fra le nebbie e le luci dell'Irlanda. La mia notte comincia qua, c'è una luce perfetta e ti scorgo nell'oscurità, la mia voce si spezza, non lo senti che sei già mia, non ho fatto abbastanza. Quest'incanto ci porterà verso i mari d'Irlanda. Io ci sarò, se ci sarai anche tu, non spegnerti io. Tu splenderesti se mi guardassi ancora. Io ci sarò, se rimarrai anche tu. Non spegnerti. Sospesa, trasparente come me, solo un altro po'. La mia notte comincia qua, come fosse per sempre tua. Il chiarore illuminerà la nostra farvida danza. Io ci sarò, se ci sarai anche tu. Non spegnerti io. Tu splenderesti se mi guardassi ancora. Io ci sarò, se rimarrai anche tu. Non spegnerti. Preziosa scintillante, così grata di ogni fremito. E ora vedo dove sei, dai sfiorami. Ti sento come sei, sfiorami, Sfiorami ti prego amore, adesso sfiorami, sfiorami ancora. Sfiorami ti prego amore, adesso sfiorami, sfiorami ancora. E le trame di un cielo stellato sostengono il nostro volo. Io ci sarò, se ci sarai anche tu, qui con me, nell'istante in cui tutto cambierà per sempre. Ora che sei bianca, io ti dedico il mio battito. Noi due, come non siamo stati mai, come siamo da sempre. Luci vibranti di ardore e speranza, ora. Bravi, bravi, bravi Lor, Blu Radio Veneto, Maurizio. Sì, questa era Sfiorami, questa Irlanda idealmente presente, dedicata a una donna, esatto. Alla passione per una donna. Sì, sì, completamente dedicata a una donna. Benissimo. Ok, abbiamo finito, purtroppo abbiamo finito Sergio, abbiamo fatto queste due ore bellissime. Ma ci siamo, guarda, mezzanotte in questo istante. Esattamente, abbiamo fatto queste due ore bellissime con il Lor. Quindi Emanuele Tinazzi e Federico Pilò, salutiamo gli altri due che sono a Verona. Matteo Gangini. Uno a Udine, uno a Verona. Matteo Gangini a Verona e Daniele Nazzi a Udine. Perfetto, li salutiamo caramente. Un abbraccione sempre. E li aspettiamo una prossima volta tutti quanti. Eh sì, certo. Portiamo batterie e tutto. Esattamente, qui c'è spazio. Fra l'altro una volta l'abbiamo anche fatto. Vedi, e quindi sì, è vero così. C'è il gancio schiacciato nell'anno. Grazie a Sergio Bortolami che ha curato benissimo la regia. Grazie di Lorco. Cosa ci salutate stasera? Stanotte ormai. Sto giro... Vai, sole. Va bene questo giro. La title track allora, la versione acustica. Versione acustica della title track, che anche questa è un po' diversa. Un grazie a tutti, un abbraccio davvero e grazie per averci concesso questo spazio, ci rende molto onorati. Grazie a voi, esatto. Sì, sì. Buonanotte alla prossima. Buonanotte. Come ieri, come da troppo tempo, anche oggi mi alzo stanco. Contemplo il silenzio e mi avvolgo in uno strato spesso di ricordo. E ricordo, come un film in bianco e nero. E ad un tratto sorrido. Sorrido già di te, mentre fingo che non faccia male. Penso si possa amare e tradire, ma ciò che conta è che gli hai dato il cuore senza rimorsi né pudore. Sorrido già di te, come il vento scaccia il temporale. E se un grido muto mi libera, da te, da me, da noi, da lui, dal vostro amore. Vivo di rabbia e sole con te. Splendo di rabbia e di sole, avverto calore se torni da me. Sorrido un po' più amaro perché incosciente rischia di riaprire vecchie ferite, ricordi e rimpianti, ma forse adesso non ho più paure. Vivo di rabbia e sole con te. Splendo di rabbia e di sole, parto calore se torni da me. Brucia. incrocio di rabbia e sole con te. Muoio di rabbia e di sole. Io provo a capire, mi chiedo perché tu non mi scaldi più e mi consegni ad un vuoto incolmabile. Nebbie e fantasmi fuori, ma tu come scheggia rimani sotto palle. Sole, porto con me.